dobbiamo avere molto rispetto, la giusta umiltà, perché questi tipi di partite, cioè poi le assenze, le... non mi risulta che giocherà sempre in 11 il Valencia, penso che giochi in meno. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Tanto Reina per Holland, carica a sinistra Holland! Spacca la porta! Inside. 0-0 per 65 minuti, in 10 minuti sono successi 3 gol. Così la Champions League si gioca su, abbiamo ancora un'altra partita, non è finita qui. Sicuramente è difficile perché è un ottavo di finale, Dortmund verrà a fare una grande partita, però noi sappiamo che giochiamo in casa siamo una grande squadra e davanti ai nostri tifosi possiamo farci. Sia Felipe che Savic, palla in mezzo, rimane lì la deviazione e la tratti avanti, è tutto buono con il tocco vincente di Saul a dare subito Pepe al match su un pallone vagante, difesa del Liverpool stranamente poco attenta e la tratti Evan. Ho cominciato la partita cercando di pressionare alto, ci è andata bene, abbiamo trovato il gol, dopo loro ci hanno messo indietro e avevamo capito che essendo un blocco sicuramente aveva molto meno spazio per tutta la velocità che hanno loro. Sono molto contento per lo sforzo dei giocatori perché hanno capito. Primo errore del solito compilatore di scalette da tastiera, pronto per l'ennesima trasmissione tutta calcio da bar, le medaglie d'oro di qualsiasi sport siano, non meritano nessun commento come spesso accade, spesso ma non qui, dopo parleremo di Dorothea Wierer, se volete spiegarci nel dettaglio la tecnica del biathlon, siamo qui 800 24 00 24, numero verde. Intanto io però parto da una Champions League che a me eccita sempre un sacco, è già partita benissimo, come Pierluigi Pardo sa, dato che ha commentato ieri sera la sconfitta del Liverpool al Wanda Metropolitano. Ciao Pier, di rientro da Madrid, e Filippo Maria Ricci, buongiorno. Buongiorno. Quanto tempo. Poche ore. Comunque volevo dire che sono mi chiamo Pierluigi, sono 14 ore che non mangio la provoletta, forse 13. Stai smettendo? Sono 13 ore che non mangio la provoletta. Sì, perché no, ma anche perché fermati da qualche parte. La provoletta sembra la scamorza, fermati subito perché più di 15 ore non si può stare. Non si può stare, lo so. No, ma Pierluigi sta smettendo anche perché il commento delle partite di Champions, secondo me, richiede dura preparazione atletica, perché tempo per tirare il fiato ce n'è pochissimo, è per questo che io le adoro. Bellissimo, soprattutto poi lo dico, insomma, ne parlavo anche ieri sera anche con altri commentatori. Soprattutto il relativo relax che ti dà poter commentare una partita di calcio con la giusta attenzione per il VAR, gli episodi ovviamente se ci sono si commentano, ma con il giusto distacco e il piacere del calcio in senso assoluto. Ieri è stata una partita non bellissima dal punto di vista delle palle gol, perché non ce ne sono state molte, ma in realtà bellissima dal punto di vista dell'intensità, e ha proposto una guerra di stili, di mentalità, di filosofie, come proprio da testo quasi filosofico, cioè erano tesi e antitesi. La sintesi la troveremo soltanto dopo il ritorno del Liverpool. Hegel magari già sa il risultato da qualche parte, però ieri era veramente l'idea del calcio propositivo e offensivo contro l'idea del pressing possibilmente alto, cercando l'episodio, cercando la ripartenza, cercando il calcio piazzato. Poi tempo per tirare il fiato mentre protestavano in campo, zero, e questo è un altro fattore, eccetera. Comunque parliamo in maniera approfondita di questo e poi di biathlon con l'ascoltatore di qui sopra. E, a proposito, prova a dire atleti, Pier. Atleti. Ripeti? Atleti. Grande Pierluigi Pardo, scrive uno, l'unico a pronunciare in maniera impeccabile atleti. Vabbè, Di Atleti, Filippo? Atleti. No. Atleti, io però anche se a questo punto, se mi porti su questo piano, esatto, il coro della serata è un altro. Bobovieri, capocannonieri, capocannonieri. Questo è il coro che facevano. Il coro, sì, che i tifosi dell'Atletico hanno fatto ieri, giustamente lui è stato il PCC della Liga, e credo nel 98-99 è rimasto nei cuori, non ha ancora capito bene perché se n'è andato alla Madrid, anche se poi la sua carriera gli ha regalato tantissime altre soddisfazioni in piazze importantissime, però insomma la sensazione è che a Madrid sia stato molto bene in campo e anche proprio come qualità della vita, ed è rimasto nei cuori dei tifosi dell'Atletico, e ieri gli hanno fatto questo coro insomma molto, molto carinamente. Sì, io però voglio approfondire tutti questi temi, compreso il mostruoso norvegesino Haaland, che non so se sa andare con gli sci da fondo, sì, non da fondo, con la pistola, col fucile, non so se sa praticare altri sport, ma il calcio lo pratica benissimo, e notavo prima come con lui Mino Raiola, dato che Ibra sta entrando nell'età della pensione, si è garantito il futuro, si è garantito lui, Mino Raiola, la pensione. Però io prima di tutto questo voglio approfondire il Barça Gate con Filippo Maria Ricci, perché crollano altri calcinacci dal santuario Blaugrana e c'è un'aria da fine impero. Spiegami tutto. Assolutamente. Allora, intanto, se vuoi, partiamo dall'attualità, perché si è dimessa, diciamo, la massima responsabile delle finanze del Barça, no? Il ministro delle finanze, una donna, Montserrat Font, si è dimessa, quindi in disaccordo. Poi è stata convocata d'urgenza praticamente la cupola del club, che di solito viene, si riunisce solo per preparare la super assemblea annuale. Oggi pomeriggio si riunisce, quindi vediamo come va a finire. Poi c'è Piqué, che ha dato della marionetta a un giornalista evidentemente, diciamo, molto vicino a questa dirigenza. E tutto questo, facciamo un passo indietro per chi non sa di cosa stiamo parlando. Praticamente è venuto fuori la Cadena Ser, la principale radio di Spagna, ha rivelato con le dovute prove che il Barcellona nel 2018 ha versato 1.200.000 euro in 6 rate. In banconote da piccolo taglio. 199.000. In banconote da piccolo taglio, anche perché questo ha un senso, cioè finanze che non controllabili, no? No, esatto, questo stavo dicendo, bonifici da 199.000 euro, che non sono, non devono essere approvati dalla giunta. No, è questa la differenza. Non erano banconote, sono stati i bonifici sono stati fatti sotto i 200.000 euro, perché quella è la soglia che deve ricevere il nulla osta dalla giunta direttiva. E perché hanno pagato questa società? Per creare degli account di Twitter e Facebook, social, per diffamare alcune persone. E peccato che tra queste persone c'è Messi, c'è sua moglie, c'è Piqué e poi vabbè, altra Guardiola, Xavi e altra umanità. Appunto, per Guardiola, Xavi e altra varia umanità passi, ma Messi e Piqué, insomma, perché volevano togliergli un po' di questo, no, del player's power. Il fuoco, no? Amico su due bandiere, soprattutto su principale giocatore, no? Esatto, e quindi questo ovviamente è facile intuire che autogol magnifico sia stato ottenuto con questa manovra. E Bartomeu ovviamente si sta difendendo dicendo che lui non ne sapeva niente, che erano semplicemente questa società era stata contrattata solo per monitorare l'andamento del marchio Barcellona su Twitter, cosa che puoi tranquillamente fare per una cifra molto inferiore al 1.200.000. E si sta difendendo. Ieri ha incontrato i capitani sono Messi, Piqué, Busquets e Sergi Roberto, più l'allenatore Quique Setién, che è appena arrivato. E da questa riunione, da quello che ho saputo io, un paio di capitani sono usciti contenti, altri due no. Abbastanza facile, secondo me, intuire come si sono schierati. E adesso no, la cosa importante, la notizia del giorno è questa riunione, della cupola del Barça, e vediamo cosa starà succedendo. Venerdì c'è una giunta direttiva, lo scenario è molto complicato, di difficile lettura al momento, però si potrebbe anche arrivare alle elezioni anticipate. Le elezioni sono previste per il 2021, Bartomeu non si può più presentare, però la situazione è molto calda, e ovviamente in tutto questo c'è questo contratto di Messi fino al 2021, ma con la clausola che, diciamo, di disvincolo gratuito a giugno del 2020. Quindi se vedo una situazione da fine impero, mi sembra che possa essere praticabile, no Pier? Anche tu? Sì, sì, è questa. Poi ovviamente c'è lo spirito dei giocatori, c'è la qualità dei giocatori che può sempre consentire di venire fuori da queste situazioni, però insomma tutti gli ingredienti per rendere complicata la situazione del Barcellona ci sono, e questo è interessante ovviamente in prospettiva Napoli, è interessante in prospettiva Real per quanto riguarda il campionato, è interessante anche in prospettiva, non lo so, Inter, Milan, non lo so, il mercato può immaginare Juve, qualcuno dice Juve, anche se immaginare Messi e Ronaldo della stessa squadra, ovviamente le grandi corazzate inglesi, insomma oggi è chiaro che è fantacalcio, no? Pensare che Messi vada via è fantacalcio, ma sta diventando sempre molto meno fanta, però chiaro, perché le condizioni credo che per una anche ristrutturazione del Barcellona, aggiungendo anche le ben note difficoltà economiche del Barcellona, che nonostante sia il fattore di più al mondo, ha delle difficoltà di cassa, tanto che non riesce a fare mercato. Quindi sì, non sono meglio, facevo marketing nella mia vita precedente, bisognerebbe fare un business plan. Credo che Messi alla fine 100 milioni di stipendio all'anno lordo lo devi pagare, però non pagheresti il cartellino. Si può immaginare per i grandissimi club, così come ha fatto la Juve con Cristiano Ronaldo, di fare un investimento che sarebbe tecnico e sarebbe anche di natura commerciale, perché è ovvio che il richiamo di Messi finisce inevitabilmente per, non solo soltanto le magliette, anche il prezzo delle amichevoli e anche il valore degli sponsor. Cioè è un tipo di operazione ovviamente ardita, e poi ovviamente deve passare attraverso il consenso del giocatore, che non ha mai nella sua carriera voluto lasciare Barcellona, quindi poi probabilmente ci sta anche bene, però Filippo ce la sta raccontando ormai da parecchie settimane in maniera secondo me molto, molto chiara, cioè tecnicamente c'è un margine per poter provare a pensare a qualcosa di questo tipo. Poi certo, ovviamente è complicatissimo, è costosissimo e dipende più di tutto dalla volontà del giocatore. Pier, anche per Ronaldo si diceva impossibile, no, costosissimo. C'è una differenza però, Carlo, sì, che Ronaldo voleva andare via. Insomma, Messi ancora no. Tu lo sai, adesso, perché adesso vediamo. Adesso vediamo. Già arrabbiato, già litigato con tutti quelli con cui poteva litigare, già manifestato il suo malumore. Adesso esce però anche sai cosa sta può roba. Succedere? Sai cosa può succedere, Carlo? Che magari invece ci sono le elezioni anticipate e il nuovo presidente è di suo gradimento. E allora a quel punto non se ne va. Cioè questo, l'idea delle elezioni anticipate, se mi piace il padrone rimango in azienda, se non mi piace il padrone vado, cambio azienda. Io ho un'idea su una, quella che sarebbe la destinazione più probabile, più logica e naturale di Messi oggi in questo momento, ce l'avrei. Fermiamoci un attimo, state tutti lì, ve la dico. 800240024, numero verde, WhatsApp vocali 349-238-6666. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24 800 24 00 24. Mister Gente e Pier Pardo vi aspettano. Tutti convocati. Tutti convocati. No, dicevo, visto lo scenario, proviamo a capire che cosa succederà nelle prossime ore a Barcellona. Napoli molto attento alla finestra, Juventus pure molto attenta, siamo all'Atalanta, a una finestra di Champions in cui stanno succedendo delle cose che sembrano, tutti gli scongiuri del caso, deporre a favore delle competitors italiane. Dicevo, dovesse andare via oggi Messi, cioè mi sembra, Filippo, la destinazione più logica e naturale sarebbe casa di Guardiola, no? La casa del padre calcistico, dove sono tutti catalani, parlano catalano, il club è praticamente un club anglo-catalano, solo c'è quel piccolo dettaglio per cui non si sa bene se faranno, quale sarà il loro futuro internazionale. Sì, è chiaro, questo è, però Guardiola più volte ha detto che Messi non si muoverà mai e che non andrà al City. Questi no, lo dice, non è che non mi sembra che debba far pretattica o cose. Per cui ma magari questi sviluppi non li immagino nemmeno lui. No, questo adesso bisogna vedere come va a finire la storia della sanzione dei 2 anni senza Champions, ovviamente il discorso si chiude. Alternative, non so, il Paris Saint Germain forse, però appunto adesso vediamo come va a finire anche questa Champions, dopo che hanno di nuovo perso ieri, se dovessero uscire per il quarto anno consecutivo negli ottavi, infatti adesso ne parliamo. Io dico, a me piacerebbe tantissimo venisse in Italia, per cui insomma, ecco, in Italia solo due club penso lo possano prendere, sono l'Inter e la Juve c'ha già Ronaldo, insomma più complicato. E come diceva Pier prima, mossa ardita, bisogna studiarla, prepararla a livello economico, magari non si può fare, e comunque tutto questo facciamo sempre i conti senza l'oste, nel senso che poi bisogna vedere se davvero Messi decide di voler andare via. E se mi consentite 30 secondi su una cosa che non diciamo mai, è stato giustamente sottolineato la bontà del modello spagnolo, dell'azionariato popolare, delle elezioni, però qui siamo di fronte a un aspetto che in qualche modo certifica anche un epic fail di questo tipo di sistema, che in generale secondo me si presta sempre a questo elemento, nel senso che perché non ci piace la politica, perlomeno non ci piace più in fondo la politica, perché c'è un discorso di ricerca del consenso, c'è un discorso di dominazione dell'avversario, insomma ci sono pro e contro, però è chiaro, è evidente che questo tipo di modello che c'è in Spagna con le votazioni, con le elezioni dei presidenti può portare a cose di questo tipo, insomma uno degli aspetti che sembra sia stato diciamo il cuore delle attività, ovviamente tutte ancora da verificare al 100%, di questa agenzia era screditare Font, no? Quindi il possibile, sì, il nuovo, il possibile successore, sì, sì. L'altro insomma, candidato alle elezioni, sì. Esatto. Quindi voglio dire, poi delle volte i presidenti sbagliano e ci sono dei tifosi che vorrebbero, che gli urlano vattene, però insomma poi non è che il modello perfetto non esiste, nemmeno un modello apparentemente democratico, anzi, ma al di là di questo poi in generale il fatto che tu per andare a prenderti il voto delle persone debba promettere degli acquisti può portare delle volte a fare delle scelte sbagliate. È un meccanismo, no? Di quel tipo lì, se vogliamo anche un po' perverso, intanto argomento che intriga tantissimo molti ascoltatori che tra l'altro domandano quando è che Messi è stato denigrato sui social in questi anni, non è solo una manovra per far fuori il presidente, domanda un ascoltatore, un altro dice ma allora a questo punto il Barcellona, Lautaro lo vuole ancora o non lo vuole più, insomma ci sono molti fronti che possono aprirsi. Sì, allora quando è stato denigrato l'anno scorso, perché diciamo adesso i tweet sono più o meno tra il 2018 e il 2019, insomma, sono arrivati, c'è uno contro sua moglie che sta facendo il giro perché l'hanno paragonata a una fiera, una leonessa, perché non so chi, se difendeva i figli, così, ma insomma ma poi cose abbastanza, neanche fatto troppo bene secondo me questo lavoro di denigrazione. Comunque, tu dici per 1,2 milioni si poteva fare. Sì, che la Toro lo vorranno, però denigrare Messi, ragazzi. non a caso ha scucito 1,2 milioni, mica due soldi. Sì, infatti. Dico, su Lautaro resta un obiettivo di mercato, però appunto vediamo poi chi lo farà al mercato, se resiste questa giunta, se se ne vanno, se ci sono elezioni. Insomma, appunto gli scenari. No, in grande incertezza. Grande incertezza, vediamo. Cominciamo da oggi pomeriggio e poi andiamo a domani e la settimana prossima. Insomma, c'è il Napoli e poi c'è il classico. Domenica prossima, il primo marzo, proprio in concomitanza con Inter Juve o Juve Inter. Cos'è? Juve Inter. La stessa sera, allo stesso orario, ci sono queste due grandissime partite e vediamo come ne esce. È qui al Bernabeu, vediamo come ne esce anche a livello sportivo, come ne esce il Barcellona. No, ma infatti, allargando il discorso, volevo notare alcune cose. Allora, ieri sera dicevamo, siamo partiti dal Liverpool che ha perso in casa del Ciolo, capo tribù, se ce n'è uno, capo banda, capo clax, se ce n'è uno, perché io non so quando, cioè, mi sembra quasi che passi più tempo ad arringare il pueblo che non ad allenare la squadra, però è solo un'impressione dalla televisione. Ma arringare il pueblo è parte dell'allenamento della squadra, no, perché passa l'80% del tempo girato verso le tribune, sembra quegli ultra che danno le spalle alla partita. La frase di Klopp della vigilia è bellissima, dice a me dicono che sono troppo diciamo emotivo, no, dice, però io in una scala emozionale io sono a livello 4, il Ciolo a livello 12, ha ragione. Ieri è stato incredibile, ieri pazzesco. Cioè, noi eravamo lì sotto stava un palmo dalla linea e continuava, si è mosso tutto il tempo. Cioè il prof Ortega, che è il preparatore dell'Atletico, che avevamo al tavolo accanto ieri sera, ha fatto un grande allenamento anche col Ciolo, perché è veramente un'intensità mostruosa. Comunque, sì, non che Klopp non scherza niente. Tra l'altro, ieri Liverpool mi è sembrato abbastanza spento, cioè forse la peggior partita stagionale, perché è vero, intensità possesso palla, però non tantissima roba. Seconda partita che perde in stagione, l'altra è stata a Napoli, in un'altra, praticamente un'altra era geologica. In Premier sta facendo quello che sta facendo, cioè dei numeri che non stanno né in cielo né in terra. 103 punti su 105. Non ha senso, una roba senza senso. Ma ieri sera non mi è piaciuto, ti devo dire la verità, Liverpool. Poi voi eravate là e quindi potete ovviamente avere altre sensazioni. Non mi è piaciuto, però ecco, appunto, ieri era veramente materia contro antimateria, era tesi contro antitesi. Ieri è stata questa roba qua, cioè una squadra che provava a giocare a pallone e l'altra che... Ma l'avevamo detto, non è che ci volesse un genio. L'Atletico Madrid è una cosa sa fare, il dubbio che non la sapesse più fare ce l'avevamo in testa. Dopo ieri sera dobbiamo dire che ancora sa fare quella cosa lì, cioè fa giocare male chi gioca bene. Ci è riuscita tante volte in questi anni, soprattutto nelle serate di Coppa, dove l'aspetto del miedo scenico, prendo in prestito una definizione storica del Bernabeu, dove il popolo del colcionero si fa sentire, dove sale la garra, sale anche la tensione, sale l'emozione anche nei rivali, no? Quando la partita comincia a sfuggire dal loro piano, dal loro comfort zone. Ecco, questa roba qui l'Atletico Madrid ieri ha dimostrato di saperla ancora fare. Poi la possibilità che ad Anfield vengano presi a pallate, secondo me c'è. Sì, c'è, però vediamolo. L'anno scorso a pallate l'Atletico Madrid al ritorno. Però vediamolo, è vero che ieri sera hai citato in telecronaca diverse volte il dato che è spaventoso, no? Dei gol segnati da Liverpool e di quelli segnati dall'Atletico Madrid sono veramente... 98 dopo ieri sera, 92-37 prima di ieri. Ragazzi, di cosa stiamo parlando? Liverpool ha giocato qualche partita in più, ma insomma è chiaro. Non abbastanza, ma l'Atletico Madrid ha fatto 25 gol in campionato in 24 partite, veniva da una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime 5 gare. Insomma, era una squadra. Ne parlavamo io ieri. Io ero sicuro che perdesse ieri, non è che ho paura. Che perdesse, diciamo, in ascolto. Io ero sicuro che Liverpool potesse vincere comodamente, perché io che li vedo tutto l'anno, diciamo questa stagione considerata di transizione, bisogna ricordare, hanno perso 5 titolari, anche 6, tutta la difesa, però questo è un Atletico che aveva perso la capacità di vincere 1-0, cioè sì, perché questo nel DNA, ieri quando l'ho visto, cioè ultimamente l'1-0 non era più il risultato talismano, e invece ieri sono riusciti, hanno tirato fuori questa... Il fatto che abbiano segnato così presto ieri è un'ulteriore medaglia, perché in 86 minuti no? E invece il Liverpool ha avuto una produzione offensiva veramente molto povera. Non ha fatto povera. Un tiro nello specchio, cioè non te lo puoi fare una cosa del genere. Ha sei tiri in tutto. Ha rischiato anche il 2-0, Ma no, ma certo, sì. Ma il dato politico comunque è che se il Liverpool, e ha ragione Paolo Condò quanto scriveva l'altro ieri sulla Gazzetta dello Sport ieri, Liverpool è la locomotiva di questa Champions, cioè la favorita d'obbligo, visto quello che ha fatto, campione in carica, quello che sta facendo quest'anno, eccetera eccetera. Se la grande favorita perde 1-0 sul campo di un Atletico su cui nemmeno Filippo Maria Ricci avrebbe scommesso, vabbè, poi io il Ciolo, no, qualche problema anche ce l'ha. Ad Anfield a danzare sulla linea laterale non ce lo vorrei. Hai capito? Partendo dal 1-0 per lui. Tutto può cambiare, però ieri è stata una prestazione pessima del Liverpool. Veramente, ecco, anche il fatto che Klopp abbia tolto Mané e poi Salah. Insomma, strano. Appunto, il dato è quello. Del malessere poi, da parte di Klopp. Voglio aggiungere un altro dato, a parte il fatto che poi tra City e Real, e lo sappiamo, una va a casa. A proposito delle grandi competitors di questa Champions. E poi c'è l'altro, c'è il Paris Saint-Germain. Perché Paris Saint-Germain va a Dortmund, subisce la furia del nuovo figlio prediletto di Mino Raiola, che inchiostra un'altra doppietta, e soprattutto dopo volano gli stracci nei confronti di Tuchel, perché da Neymar in giù e in su gli erano detti di tutti i colori tra fratelli e amici. Altamente, diciamo, ce lo potevamo aspettare, insomma, perché sì. Quello spogliatoio lì Tuchel non ce l'ha in mano, l'ha perso da tempo e adesso... vediamo diciamo come va a finire. Perché questa, cioè, se dovesse uscire 4 anni consecutivi agli ottavi, rischiano sicuramente. Io penso che ce la facciano, io penso che restino dentro. Penso anch'io che restino dentro. L'1-2 non è un bruttissimo risultato. E mi colpisce, chiaramente ho visto solo gli highlights, mi colpisce che sia stata fatta una sola sostituzione. E onestamente sì. Credo che anche su Icardi una cosa vada detta, no? Nel senso che comunque certo. Questo attaccante straordinario che ha vissuto un autunno di alto livello, di altissimo livello a tratti, però ecco, adesso è molto sparito. Fa un po' effetto vedere quello che sta facendo, o meglio che non sta facendo nell'ultimo mese e mezzo. No, il Paris Saint-Germain può fare il passaggio del turno. Però perché... ieri ha sbagliato anche l'impostazione, il modulo. Insomma, poteva prendere anche più gol. Neymar ha pure preso il ragazzi, palo. Alla fine vanno prese con beneficio di inventario tutte le varie cose di social e mica social. Però allora Neymar che dice: ma io ero pronto già da un po', è chiaro che non posso tornare a giocare subito una partita di Champions ottavi di andata senza. Dopo che tu che l'aveva detto non poteva essere pronto visto che non gioca da un sacco di tempo, allora lui diceva potevo giocare anche prima, non mi avete fatto giocare. Poi c'è tutto il clan di Kimpembe che ne ha dette un po' sui social a tutti, non propriamente parolacce pesanti, insomma mi sembra che quel contesto lì sia a rischio di esplosione. Vive una condizione che è oggettivamente complicata. Sono bei problemi nella vita, per carità, tutti ricchissimi, con dei budget pazzeschi, però vive questa condizione di un club che domina in Francia praticamente per decreto legge, per manifesta superiorità, e che poi arriva ogni anno a giocarsi la Champions League veramente come un'ossessione, anche con un corollario di clamorose eliminazioni, con un recente passato di clamorose eliminazioni, quella del Barcellona del 6-1 ovviamente la più clamorosa, ma ce ne sono state anche altre. Finché non stappa questa maledizione è tutto molto complicato, quindi io credo che ribaltabili, secondo me la ribalteranno sia il Liverpool che il Paris Saint-Germain, credo che si porti dietro un po' di ansia alla prestazione. Sì, tutte e due. Ci fermiamo. Filippo, grazie. Ci sentiamo a strettissimo giro di posta, naturalmente. Grazie Filippo Maria Ricci. Siamo qua. Ciao. Ciao con Pierluigi invece, scavalliamo la borsa e torniamo. Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Convocati. È durissima. Mamma mia. Penultima curva. Non c'è traffico, è assolutamente spinta. 13, dai, 12. Dai, ce la può fare. È veramente questione di pochissimo. Mamma mia. Per me ce la fa. Dai che ce la fa. Dai che ce la fa. Ce la fa, Dorotea. Incredibile. Dai. Incredibile. Ancora una volta. Cuore d'oro. Questa è la gara della vita. Avevo delle buone sensazioni sia sulle sci che anche al tiro, però niente, ho pensato a un certo punto, ma mi va bene anche l'argento oggi, poi ho pensato no dai cavolo, combatti, devi vincere, e poi ce l'ho fatta. Beh, messa Dorotea Verara, che abbiamo visto ieri in TV, che abbiamo, insomma, di cui abbiamo letto oggi sui giornali, sentito ovunque. Ora, io però rifiuto l'accusa che tutti i convocati sia un programma particolarmente monotematico calciocentrico. Parliamo di tutto lo sport e ci piace parlare di tutto lo sport. Detto questo, vi chiedo un consulto a professor Pardo. Non è che dal punto di vista televisivo non è che il biathlon sia esattamente uno sport di massa, dubito che l'Italia si fermerà. Io dubito che l'Italia si fermerà per le dirette televisive delle gare, magari se oggi siamo tutti biatleti. Si ferma pure per le dirette, ed è una bellissima notizia perché è segno di cultura sportiva. Da qui all'idea che poi si debba fare il dibattito con le telefonate sul biathlon, questo Veramente lo dico lo sport è meraviglioso tutto, la pratica sportiva è meravigliosa perché lo sport fa bene alla testa, al cuore, al fisico, e le imprese sportive sono meravigliose e letterarie, per cui è giusto secondo me celebrare questa cosa qui. Poi se qualcuno vuol chiamare e dire le cose di biathlon, qua i microfoni sono aperti. È chiaro. Però ecco che non che si faccia un dibattito che... sulla gara di biathlon, a me viene onestamente difficile in tutti i miei limiti. Ma nulla toglie alla grandezza straordinaria di un atleta che è anche un personaggio molto mediatico, molto fotogenico, molto telegenico, il che è un plus, cioè è una cosa che, in che più. L'Italia, che dai, l'Italia, ragazzi, rispetto ad altri paesi, ultimamente c'è stata quella polemica per la prima pagina su Kobe Bryant, che l'Italia rispetto ad altri paesi, ad esempio alla Francia, sia un paese veramente che ha uno sport solo al comando, che pesa per il 70-80% della mediaticità, questo è evidente. Insomma, in Francia, certo, per esempio, hanno il rugby, che è uno sport che ha la stessa popolarità del calcio, certo, in Inghilterra hanno i loro sport tradizionali, in America sappiamo che il calendario è diviso in 4 sport principali durante l'anno, quindi da questo punto di vista siamo un po' monotematici, è vero, come sono un po' monotematici i greci, come sono un po' monotematici i portoghesi, non è che, per carità, no, però se ti dicono ma è più popolare in Russia, in Norvegia che non in Italia, io dico ma è quasi normale, no, che certo, un atleta di questo tipo sia estremamente popolare in luoghi, in posti in cui per cultura questi sport hanno un peso specifico maggiore. Il calcio fa discutere proprio per la sua semplicità e per il fatto che comunque si lega ai campanili, quindi c'è anche questo elemento qui, cioè uno può fare con le immagini, può fare anche un'ora meravigliosa di biathlon, ma veramente meravigliosa. Il dibattito, ripeto, è un po' più difficile, tutto qui. Dibattiamo. Massimo, buongiorno. Sì, buongiorno, ciao a tutti. Ciao. Volevo intervenire sulla notizia che vedeva tu prima riguardo appunto a questo litigio che c'è stato tra il Barcellona e questo Barça Gate, che come avrai capito è solo alle prime puntate, perché è esploso dagli ultimi due giorni. Sì. Ormai le storie di calcio si conoscono. No, siccome prima ho sentito dire in studio che le uniche due squadre che se lo possono permettere in Italia sono appunto Juventus e Inter, però c'è una cosa che non mi quadra, perché ho letto poco tempo fa che la Juventus non è che sia messa proprio benissimo economicamente, anzi ha un disavanzo abbastanza pesante. Ora parlo di cifre perché è un tecnico in materia, quindi ma si parlava intorno a più di 400 milioni. Ora, quello che non riesco a capire è come mai Barcellona, che è una squadra che vince scudetti da anni, che vince Champions League da anni, sia così messa male economicamente, e una società come la Juventus, che più che scudetti non riesce a vincere in Italia, e invece si possa permettere anche magari di pensare di portare a casa Messi, che sono altri 50 milioni di euro, a meno che ovviamente non venda mezza squadra, allora quello è un altro discorso. Allora, il riferimento è una cosa che ha detto Ricci, e secondo me è una cosa che ha senso, nel senso che guardando la dimensione, i fatturati del calcio italiano, in questo momento le due squadre che sembrano in grado di potercelo permettere sono quelle due. Per me fra le due, ma ripeto, stiamo facendo fantacalcio, l'ipotesi più probabile per mille motivi sarebbe comunque l'Inter, perché non credo che Messi andrebbe a giocare con Cristiano Ronaldo e non credo che la Juve potrebbe sopportare una massa di spesa con quei due crack. Quindi, però detto questo, come a livello di fatturati sono quelle due società lì. Quanto a Barcellona, il Barcellona negli ultimi anni ha sbagliato delle cose. Dopo i famosi 222 milioni incassati per Neymar, sappiamo che tra Dembélé e Coutinho ha speso male, ha speso tanto e ha speso male, al punto che quando poi quest'estate c'è stata la possibilità abbastanza chiara che Neymar tornasse, il Barcellona poi non aveva i soldi. E non ha fatto mercato, non dimentichiamo, Messi, non ha fatto mercato pur avendone la necessità assoluta, visto che non c'è Suarez, non è riuscito a prendere lo straccio di un attaccante, Messi si è arrabbiato. Ed è stato un altro capitolo di questo Barça Gate. Una volta questa suggestione, Bellinazzo, sentiamolo, perché credo che possa essere utile. Certo. Quello che è evidente sono i fatturati. Il fatturato della Juve è cresciuto molto in questi anni, sono cresciute molto anche le spese, è stato fatto un aumento di capitale, e sappiamo che l'aumento di capitale da un lato è una cosa molto buona perché porta nuovo capitale, dall'altra certifica il fatto che c'è un fabbisogno. E c'è bisogno, quindi voglio dire, come tutte le cose della vita, ha due diverse possibilità di lettura, però è andato bene questo aumento di capitale. La dimensione del fatturato, certo, della Juve è una dimensione, certo, molto alta. Quella dell'Inter è in enorme crescita negli ultimi anni. Poi c'è il Milan, che come bacino d'utenza sicuramente se trova un orizzonte tecnico un po' più chiaro può tornare a pensare a quei giocatori lì, e poi ci sono Roma e Napoli, e adesso c'è anche la Lazio, però insomma, il fatturato della Lazio credo sia intorno ai 150 sì, milioni. No, ma credo, guarda, che non abbiano, intendiamoci cioè, bene, non abbiano una struttura diversa. Societaria, questi altri club non abbiano, ma forse Milan compre, sì, fatturato certamente, cioè, ma anche la struttura societaria in grado di reggere un investimento di questo tipo. Traffico, sì, aspetta. Mi chiamano il traffico, va bene, siamo in anticipo, lo mandiamo, poi Giacinto. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati. Giacinto, buongiorno. Buongiorno, grazie per la convocazione, complimenti per la trasmissione. Grazie. E complimenti al grande Pardo e a lei, dottor Cenna. Una cortesia, non ho le vostre competenze calcistiche, ma essendo, nonostante il nome, sono tifoso della Juve, e volevo, se mi posso permettere, dare un suggerimento alla Juventus. Considerando il rientro di Chiellini e la bravura di De Ligt e Bonucci, e la difficoltà temporanea dei centrocampisti e in modo particolare di Pjanic, tra l'altro anche infortunato, non mi mettete a ridere, non sarebbe il caso che Sarri provasse Bonucci davanti alla difesa, considerando che gioca a testa alta e ha degli ottimi piedi? La ringrazio e ascolto per radio. Molto, a me sembrerebbe piuttosto ardito, oltre che non necessario. Tra l'altro adesso dovrebbe rientrare anche Khedira, quindi penso che... No, in prospettiva voglio cogliere, secondo me c'è un senso di questo intervento, secondo me c'è, nel senso che Bonucci è un giocatore che per caratteristiche potrebbe giocare magari in futuro davanti alla difesa. Sappiamo che è un esperimento che ogni tanto viene provato, l'ha fatto per esempio con un buon successo Fonseca nella prima parte di stagione con Mancini, di quella di mettere un difensore davanti alla difesa, l'ha fatto David Luiz perché faceva un po' di disastri, cioè, sì. Aveva delle grandi qualità ma aveva qualche amnesia di troppo, in alcuni momenti è stato spostato in quella posizione lì, però in questo momento secondo me Bonucci serve alla Juve. Certo, cioè, che serve alla Juve e serve lì dove potrebbe valere in futuro, se tu avessi una coppia centrale Chiellini, De Ligt, pazzesca, poi dipende ovviamente anche da come vuoi giocare. In astratto Bonucci ha quelle caratteristiche perché è un giocatore che ha soprattutto nella qualità tecnica, però la sua forza, credo ancora sia, di più che nella pura capacità di marcatura, no? Però situazione emergenziale, se ce n'è una, insomma, anche quella che citavi di Mancini alla Roma è stata una soluzione d'emergenza che poi ha funzionato, però questione di passo, di tempi, di insomma, è un altro lavoro. A proposito di Roma, oggi c'è stato in conferenza stampa che precede la partita Europa League di domani uno sbrocco alla Fonseca, sentiamo. Si crea qui in Roma una negatività che io non capisco. La prima cosa che io ho sentito quando io ho parlato con molte persone di Roma, a Roma è molto difficile, è una grande pressione, è questo, è sempre negativo. Io devo dire una cosa, se un allenatore non vuole avere pressione, non puoi allenare squadra come Roma. Quando non vinco, la critica è più forte, quando io vinco, la critica è meno forte, ma questo è qui e in tutte le grandi squadre. In questo caso per fortuna ha lasciato stare le poste, ma il senso è quello, se volevo allenare... Non ho capito se di fatto sta dicendo che non c'è pressione oppure che c'è pressione. No, diceva che se... lo chiedo a Massimo Caputi, che ringrazio, però mi sembra di aver capito, se volevo allenare in un posto senza pressione, la pressione c'è tutta in grandi club, andavo ad allenare la squadra delle poste, insomma. Questo no, basta! Basta con le poste, già tutte le cerchie. No, io credo. Salutiamo gli amici delle poste. Salutiamoli tutti. Che invece Fonseca abbia voluto dire un'altra cosa. Non è che tanto che se non voleva la pressione non veniva a Roma. Beh, diciamo che lui dice che è una pressione normale, solamente che qui viene vista come un alibi. E lui credo che abbia voluto togliere l'alibi a non solo all'ambiente, ma anche alla squadra, ai giocatori. E in generale a questo questa altalenanza di risultati. Io condivido e devo dire che ho apprezzato molto l'intervento di Fonseca, proprio perché qua a Roma spesso e volentieri si dice che non si riesce a ottenere determinati risultati perché c'è l'ambiente, ci l'ambiente sono l'ambiente romano, il palentino, sono tutte fesserie a mio avviso. La verità è un'altra, che qua a Roma difettiamo di una cosa in particolar modo, che quando le cose vanno bene siamo portati a sopravvalutare tutto, quando le cose vanno male e facciamo esattamente l'incontrario, parlo di ambiente, ecco il famoso ambiente. E allora cosa succede? Che con la Lazio, perché questo non bisogna mai dimenticarlo, che va come va, è una Roma che perde 5 partite su 7, quindi è evidente un momento di grande difficoltà e di crisi, sembra che la squadra è diventata una squadra di promozione, che l'allenatore è un incapace e che la campagna acquisti è totalmente da buttare. E questo purtroppo è il limite, però meno male che è venuto un allenatore straniero a dirci, ma soprattutto a togliere prima a se stesso e poi alla squadra questo alibi del famoso ambiente e della pressione. No, certo, Massimo, ma questo è verissimo. Probabilmente ha un po' illuso anche il cammino che in totale emergenza la Roma ha fatto fino a gennaio, perché lì se avessero perso dei punti per strada potevi dire vabbè, che devo fare, devo giocare con gli stopper a centrocampo. Cioè, che quell'emergenza famosa dove la Roma ne è uscita benissimo ti ha portato il conto e te lo sta portando adesso e mi spiego velocemente perché? Perché questa è una squadra disastrata dagli infortuni e allora anche i giocatori che ritornano sono costretti a giocare perché nel frattempo se ne sono fatti male degli altri. Faccio un esempio così che capite tutti: Diawara si fa male, Cristante reduce da un infortunio è costretto a giocare tutte le partite ed è ovvio che non sia nelle in grandi condizioni, che comunque poi patisca il suo momento di forma. Lo stesso vale, non so, per Kluivert, che stava giocando molto bene, si è fatto male, adesso fatica a ritornare. Cioè, è tutto un insieme. È ovvio poi che ci sono anche dei limiti strutturali, perché questo è evidente. È evidente. Roma... Poi ti si fa male un giocatore come Zaniolo, che credo sia dei 3-4, forse 2, insieme a Dzeko, più importanti di quella squadra lì. Però quello che emerge, Pier, alla fine è una immagine di grande confusione all'interno della Roma, perché parla Petrachi in contoni molto duri, forse fin troppo, forse in alcuni casi sgarbati, e ora Fonseca dice vabbè, c'è pressione, ma che cosa dobbiamo fare? L'immagine che emerge, complice anche un cambio di proprietà in divenire, è quello di un momento di profonda confusione. Certo, poi c'è il troppo trading di questi anni, insomma, ieri ho commentato banalmente, c'erano Alisson e Salah che poi ieri hanno giocato male, soprattutto Salah, ma che sicuramente hanno fatto le fortune del Liverpool, sono soltanto due nomi. La Roma che arriva alla semifinale di Champions League contro il Liverpool era una squadra che, insomma, se avesse mantenuto quel tipo di intaragliatura oggi parleremo di una storia completamente diversa. Ha fatto un mercato situazionista, andando a prendersi delle possibilità, alcune anche interessanti, pagando forse troppo alcuni giocatori. Poi è vero, sicuramente ha chiuso il girone d'andata al terzo posto in classifica e francamente io non mi aspettavo un tracollo di questo tipo. I valori tecnici mi sembravano più alti, però insomma alla fine la dimensione della squadra è questa, cioè non quella delle ultime sette partite, perché lì c'è stato proprio il tracollo, ma è una dimensione di una squadra che non ha provato ancora una penalità. Poi c'è l'elemento ovviamente della rivalità cittadina che a Roma pesa, credo sia indiscutibile, perché la Lazio sta facendo una cosa straordinaria, quindi però, questo anche dal punto di vista ambientale sicuramente non aiuta. Però insomma la dimensione è quella di una squadra da quarto o quinto posto. Fa una bella differenza però tra quarto e quinto, perché non c'è poca cosa in ballo in questo momento, Massimo. No, hai ragione, è ovvio che per la Roma un secondo anno fuori dalla Champions sarebbe un danno evidente. Ora c'è questo cambio di proprietà e vedremo, sarà interessante e importante capire quale sarà la strategia di Fredkin, anche perché sono d'accordo con Pierluigi, cioè qui a Roma il trading diciamo un po' stancato tutti, perché proprio attraverso questo trading poi i risultati non sono arrivati e si sono visti tanti giocatori sfilare davanti agli occhi importanti. Direi che La Roma però non va sottovalutato questo, è ovvio che va analizzato il momento profondamente negativo delle 5 sconfitte su 7 in questa inizio di 2020, però se noi ci portiamo a inizio stagione e oggi, senza sapere come è stato l'andamento dei risultati, guardiamo la classifica, in fin dei conti non possiamo stupirci se perché quella è comunque la dimensione. Sì, è vero. Secondo me è come per il Milan, cioè se il Milan arriva a sesto ha fatto il suo, ne parlavamo ieri, se la Roma la giocherà con l'Atalanta per quel quarto posto, cosa che fa tutta la differenza del mondo, però quella attualmente è la sua dimensione sportiva. Allora, grazie a tutti, grazie Massimo. Grazie a voi, come ciao. Sempre. Ciao Pierluigi, sentiamo domani. Io sarò a Verona. Io e Claudio Schiattone, che saluto e ringrazio, mentre Andrea Roccabella rimane qui, a Verona sarà qualcun altro in regia, però trasmetteremo da Verona, ovviamente, tutti convocati domani alle 2. Ciao. Minchia, è stato una montagna russa. Ci vediamo domani. Enjoy. Saluti.